Allora, siamo in diretta qua dal piccolo teatro aperto, in diretta anche, non è vero, con partigiani in ogni quartiere, non è vero perché non è partita la diretta, ma noi la facciamo lo stesso come... Ciao Rita! Ciao Alessandra! Vi sento benissimo! Allora va tutto molto bene, certo, capisco, siete rimaste chiuse in diretta, siamo qua, è il 30° giorno. Siccome a noi non piacciono le giornate, le feste, le celebrazioni, noi il 27 marzo, che era la giornata internazionale del teatro, siamo entrati qua. E oggi, che sarebbe la giornata della liberazione, che noi cerchiamo di festeggiare ogni giorno, è il 30° giorno che siamo qua. Ogni giorno cerchiamo di partecipare, prendere parte, di allenarsi nell'arte della partecipazione diretta, nell'essere partigiane e partigiani ogni giorno. Per cui dal teatro, piccolo teatro aperto, e dal Parlamento Culturale Permanente, che venerdì 30 aprile audirà ufficialmente il Parlamento italiano, a volte detto inculturale. Noi li audiremo qua e presenteremo loro, consegnando nelle loro mani, una proposta di riforma strutturale del lavoro nello spettacolo dal vivo e degli eventi. E allora, per festeggiare, e per festeggiare le riforme, i rinnovamenti, i cambiamenti e l'essere partigiane e partigiani tutti i giorni, con un in la do maggiore, eccoli tutti! Grazie.